Italia in controluce. Daniele Biacchessi in conduzione in Italia in controluce, le cronache italiane su Radio 24, le storie delle persone, i problemi, le grandi eccellenze delle città. E Milano e il suo hinterland, non Locri, la capitale della mafia più importante del mondo, con i suoi capi bastone, i riti misteriosi ed occulti, i colletti bianchi pronti a riciclare nelle grandi lavanderie finanziarie ingenti proventi provenienti dal narcotraffico, in particolare dalla cocaina. Quali sono i luoghi e le mappe del potere criminale nella provincia di Milano? Chi controlla il traffico? Quali preoccupazioni per Expo? Il racconto di Raffaella Calandra. Al Lions Bar i giornalisti ormai li fiutano a distanza. Da quando il suo nome è finito negli atti delle inchieste, questo locale di Bucinasco potrebbe diventare il simbolo dei luoghi di ritrovo dei picciotti del nord, ora che qui ha fatto tappa Frederick Forsyth, il giallista inglese che agli affari dell''ndrangheta vuole dedicare l'ultimo libro. Nei dossier internazionali, infatti, Bucinasco è frazione di Platì, Calabria. C'è delle zone completamente oscure dove in alcuni momenti erano stati nascosti dei latitanti, erano state nascoste delle armi, c'era il traffico di droga. Abbiamo proprio mandato le ruspe, siccome alcune di queste costruzioni erano di proprietà di alcune famiglie che hanno riferimento a questo gruppo, si è creata grossa tensione. Le famiglie innominabili sono i Barbaro Papalia, potente clan di Platì che su Bucinasco, Corsico, Rozzano e Trezzano, a sud-ovest di Milano, da anni hanno esteso il loro controllo. Una presenza che Maurizio Carbonera, ex sindaco di questo comune dell'Interland, ha scoperto con minacce e attentati. Due auto gli sono state bruciate e in un venerdì santo gli arrivò una busta con la sua foto e un proiettile. Sbarcati qui per il confino imposto loro 30 anni fa, i boss calabresi si sono infiltrati in molti appalti e nei grandi cantieri edili, cominciando col Movimento Terra, qui in un paese con 3 panettieri e 30 società immobiliari. Vede tante di queste imprese alla fine utilizzare per una serie di subappalti imprese che fanno riferimento a queste famiglie. Diventa quasi un'assicurazione. Chi decide come muovere questi capitali in parte abita a Bucinasco. Per esempio il Novi Gevanese, che è un grosso concentrato di strutture commerciali, è un luogo che ha risentito dell'investimento di queste risorse. Qui su Bucinasco alcune realtà che presumiamo possano fare riferimento a queste famiglie si stanno allargando. Fermenti ben noti a chi indaga sulla malavita all'ombra del Duomo e aggiorna la mappa dei vari clan. A sud-ovest dunque i Barbaro Papalia, più in là la Cosca, Morabito, Palamara. In città, ma nella cerchia esterna, i Coco Trovato, fin sotto la Madonnina invece in Irta Strangio. L'Expo e i suoi 10 miliardi circa di investimenti sono ora il boccone più ambito dalle Cosche, che puntano però anche agli appalti per la Pedemontana e la Brebemi. Il settore del Movimento Terra è il settore dove le organizzazioni calabresi operano direttamente, ma quello è soltanto, diciamo, il primo di un anello. L'evoluzione di quello che saranno gli sviluppi immobiliari legati all'Expo destano estremo interesse nei loro confronti. Il tenente colonnello Andrea Martinengo è alla guida del GICO a Milano, il gruppo di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di Finanza, uno dei nuclei impegnati insieme a polizia e carabinieri nella lotta alle mafie. Mafie che spesso usano la principale piazza economica anche per i loro incontri d'affari. Ultimamente si è notato che ci sono delle organizzazioni straniere di narcotrafficanti molto ma molto forti che hanno acquisito una capacità di effettuare importazioni di cocaina dal Sud America con un canale logistico proprio. Le organizzazioni mafiose italiane si rivolgono anche a queste organizzazioni per l'acquisizione dello stupefacente già sul territorio. Diciamo che le vendono all'ingrosso prima che al dettaglio. E per quanto riguarda invece proprio gli accordi, sono i boss presenti sul territorio o anche le famiglie di provenienza scelgono questa piazza, la piazza milanese, anche per fare questo tipo di accordi? Abbiamo notato già in diverse occasioni utilizzare la piazza di Milano per l'effettuazione di incontri, di accordi fra organizzazioni fornitrici e organizzazioni acquirenti, fatte su Milano, quindi con mediatori o con soggetti che dalla Calabria vengono per concordare ai dettagli di certe operazioni illecite di importazione. Si dice sempre in questo momento che l''ndrangheta è la più forte. I rapporti tra l''ndrangheta e mafia e camorra. C'è una relazione di non belligeranza con anche però possibilità di effettuare comunque delle operazioni di investimento insieme, no? Quale potrebbe essere? Per esempio nel discorso dell'energia alternativa. Il fotovoltaico e i grandi affari dei pannelli solari. Non solo dunque le classiche vie del riciclo, l'andrangheta si aggiorna e come molti imprenditori bussa anche agli sportelli degli istituti di credito, secondo l'analisi di Mario Venditti, PM della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Ci sono segnali che indicano come in qualche modo il denaro delle banche sia veramente elargito a man bassa per finanziare mutui immobiliari anche con un minimo di garanzie, anzi senza nessuna garanzia, come se ci fosse un surplus di denaro da distribuire, da trasformare, da far uscire, da far rientrare poi sotto altre forme. Segnali non fatti concreti, sono soltanto dei piccoli squarci in una nebbia che potrebbe nascondere una realtà inquietante, una realtà pericolosissima. Italia in controluce. La morte del giovane romano Stefano Cucchi e di altre persone ha fatto emergere un problema mai risolto: la difficile condizione in cui versa il nostro sistema penitenziario. Carceri vecchie, obsoleti, strutture spesso fatiscenti. Maria Chiara Grandis. È necessario essere vicini a tutte le realtà in cui si soffre anche perché ci si sente privati di diritti elementari. Penso ai detenuti in carceri terribilmente sovraffollate, nelle quali non si vive decentemente, si è esposti ad abusi e rischi e di certo non ci si rieduca. Anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel messaggio di fine anno ha chiesto solidarietà per i detenuti nelle carceri italiane. 65.000 persone stipate in 274 penitenziari costruiti per 44.000 posti. 171 le strutture sovraffollate. La situazione più grave è quella di Poggio Reale a Napoli. Ogni anno aumentano i suicidi. Sono stati 177 solo nel 2009. Dietro le sbarre, persone private della dignità, oltre che della libertà. Lo dice Don Sandro Spriano, cappellano del carcere romano di Rebibbia, per 20 anni responsabile dei volontari della Caritas. Abbiamo problemi di diritti alla salute che si perdono, problemi di diritti all'affettività e alla sessualità che si perdono, perché i numeri non consentono nemmeno più di fare i colloqui in maniera regolare. Abbiamo i poveri che non possono colloquiare con la famiglia perché non hanno i soldi per pagarsi le telefonate. Abbiamo gente senza vestiti. Quando un detenuto riceve un rotolo di carta igienica ogni 2 mesi e mezzo, ditemi voi se siamo ancora nella dignità. In celle fatiscenti da 4 letti ciascuna, dove spesso non si riesce neanche a stare in piedi, più della metà dei detenuti è in attesa di giudizio e le associazioni denunciano un uso troppo frequente della carcerazione preventiva. La segretaria di Detenuto Ignoto, Irene Testa. Molto spesso il risultato è che per molte persone innocenti vengono dichiarate assolte, ma si deve anche considerare che queste persone hanno anche delle famiglie e le famiglie si trovano a dover affrontare numerosi disagi, a partire dagli avvocati che devono essere pagati. Ci sono famiglie che sono costrette a fare 200-300 chilometri per incontrare un congiunto. Sono quasi 800 le persone che ogni mese varcano la soglia del carcere. Il 37% dei detenuti sono stranieri, erano 43.000 lo scorso anno. 13.000 non hanno rispettato l'obbligo di espulsione. Il 30% è tossicodipendente, il 10% ha una malattia mentale. Per Franco Uda, responsabile carcere e giustizia dell'ARCI, il piano di nuova edilizia penitenziaria del governo non basta. Con i 500 milioni stanziati bisogna investire in progetti di recupero sociale. Inoltre, il sistema normativo andrebbe profondamente cambiato. La Bossi-Fini, la Fini-Giovanardi e l'ex Cirielli sono le 3 norme maggiormente responsabili dell'incarceramento oggi in Italia. Noi chiediamo che vengano profondamente riformate. Chiedono al governo di intervenire in fretta anche gli operatori di polizia penitenziaria perché, come spiega Eugenio Sarno, segretario nazionale UIL Penitenziari, la situazione potrebbe sfuggire di mano. In galera si opera in un rapporto medio di 1 agente per 100 detenuti, questo nell'orario diurno, che nell'orario notturno si abbatte ad 1 agente per 250-400 detenuti. Siamo nelle condizioni per cui dovesse capitare, come dire, l'indicibile, noi assolutamente non potremo far fronte. L'allarme è alto, ma probabilmente le condizioni sono molto più avanti dell'allarme rosso. Questa era la cronaca italiana secondo Radio 24. Tutte le puntate sono disponibili su www.radio24.it. Le vostre domande sui temi trattati nel gruppo di Facebook Radio 24 Italia in Controluce, via mail controluce@radio24.it. Italia in Controluce torna domani alle 6.30.